terzo anello ad alta voce, i Buddenbrock di Thomas Mann, introduzione di Bianca Maria Frabotta. Sin dal primo fastoso e ipercalorico banchetto consumato alla tavola dei Buddenbrock, la famiglia di ricchi commercianti prussiani di cui il romanzo di Thomas Mann narra le vicende per ben 4 generazioni, siamo assaliti da una insopportabile sensazione di sazietà che ci instilla subito il desiderio di una catarsi purificatrice. Ma per il giovane lettore di Schopenhauer, di Wagner, di Nietzsche, nel 1901, quando la saga dei Buddenbrock viene pubblicata con un immediato successo di pubblico e di critica, Thomas Mann ha solo 25 anni, purificazione e decadenza coincidono. L'ascesa dei Buddenbrock, accompagnata con dettagliato scrupolo di memorialista dal 1835 agli ultimi decenni del XIX secolo, figlio di un facoltoso mercante di Lubecca, Thomas Mann conosce bene la classe che descrive, è la causa stessa del loro declino. L'arte, scriverà il futuro premio Nobel, è l'espressione di due anime in un petto, il frutto doloroso e contraddittorio dell'antitesi fra la salute del borghese e la malattia dell'artista. Le mani dei Buddenbrock erano troppo larghe e corte per un qualsiasi strumento musicale. All'anima borghese del commercio sono sufficienti buoni pasti, solidi e flessibili principi, culto della famiglia e della ditta. Anche la natura è superflua, se non come l'adeguato contorno di una auspicabile prosperità, e la storia, tra guerre e rivoluzioni, non conta se non per gli inevitabili contraccolpi sull'andamento degli affari. Al suo primo romanzo, Thomas Mann, che tiene in pugno saldamente le disperse fila di una così monumentale, corposa e frastagliata fabula, sembra dotato della stessa capacità costruttiva, della stessa etica produttiva dei suoi avi. Ma nelle sue vene, e dunque anche nella sua vena di filosofo e di malinconico esteta, oltre che di robusto realista, scorre anche il sangue creolo della madre Giulia, nativa di Rio de Janeiro. E passo dopo passo, inevitabilmente, la genealogia dei Buddenbrock, soprattutto nella sua linea maschile, si infiacchisce e si estenua in una lentissima ma inesorabile estetizzazione della loro vita borghese, fino a corrompersi e purificarsi nel suo ultimo discendente, il fragile, femmineo, trepidante Hanno, genio precoce nella musica come nella morte. Morirà sulle soglie dell'adolescenza, nel punto preciso in cui aveva sentito quanto male faccia la bellezza, quanto a fondo ci precipiti nella soggezione e nello sgomento nostalgico, struggendo tuttavia il nostro coraggio e la nostra capacità di vivere nella vita comune. Thank you. Come dice? Come dice? Per Bacco, c'est la question, ma très chère demoiselle. La moglie del console Buddenbrock, che stava seduta accanto a sua suocera sul sofà rettangolare, verniciato di bianco e ornato con una testa di leone dorata, il materassino era rivestito di una fodera giallo chiara, lanciò un'occhiata al marito, seduto accanto a lei su una sedia a braccioli, e accorse in aiuto della figliuola che il nonno, stando accanto alla finestra, teneva sulle ginocchia. «Tony!» disse. E la piccola Antonie, una bimba di 8 anni, di fragile costituzione, con un abitino di leggerissima seta cangiante, volse la bella testolina bionda e con gli occhi grigio-azzurri guardò in giro per la stanza, senza vedere nulla e sforzandosi di pensare, mentre ripeteva ancora «Come dice mai?» Poi soggiunse lentamente «Credo che Dio!» E rischiarandosi in viso, continuò in fretta «Ha creato me insieme con tutte le creature!» E arrivata sul binario buono, snocciolò raggiante, senza intoppi, tutto l'articolo di fede secondo il catechismo che era appena uscito nell'anno 1835, nuovamente riveduto col nulla osta dell'illustre e savio Senato. Una volta preso l'avvio, così pensava, si aveva la stessa sensazione di quando, nell'inverno, scivolava con la slitta insieme ai fratelli giù per il monte di Gerusalemme. C'era da restare storditi e non si poteva fermarsi neanche volendo. E oltre a ciò, gli abiti e le scarpe, i cibi e le bevande, la casa e il podere, la moglie e i figli, i campi e il bestiame. A queste parole il vecchio monsieur Johann Buddenbrock scoppiò in una franca risata. Quella sua risatina limpida ad occhi socchiusi che già da un po' teneva in serbo. Rideva soddisfatto di poter farsi beffe del catechismo e probabilmente aveva inscenato il piccolo esame soltanto per questo scopo. Si informò dove fossero i campi e il bestiame di Tony, domandò quanto prendeva per un sacco di grano e le propose di combinare qualche affare. Il suo viso tondo, roseo e bonario, al quale con la migliore volontà non era capace di imprimere un'espressione di cattiveria, era incorniciato dai capelli coperti di cipria nivea e una specie di codino appena accennato gli ricadeva sul largo bavero della giacca color topo. Aveva 70 anni ed era rimasto fedele alla moda della sua giovinezza. Aveva rinunciato soltanto alla guarnizione di passamani fra i bottoni e le grandi tasche, ma in tutta la vita non aveva mai portato calzoni lunghi. Il suo largo doppio mento posava con un'espressione di benessere sulla pettorina di pizzo bianco. Tutti avevano fatto eco alla sua risata, soprattutto per rispetto verso il capo della famiglia. Madame Antoinette Buddenbrock, nata Duchamp, rise esattamente come suo marito. Era una signora formosa, con grossi riccioli bianchi sopra le orecchie, vestita ad un abito a strisce nere e grigio chiare, senza guarnizioni, indizio di semplicità e modestia. E aveva le mani bianche e ancora belle, tra le quali teneva in grembo una piccola pompadour di velluto. Con l'andar degli anni i suoi lineamenti erano diventati stranamente simili a quelli del marito. Soltanto il taglio e il tono scuro e vivace degli occhi rivelavano un po' la sua origine semilatina. Da parte del nonno discendeva da una famiglia della Svizzera francese, ma era nata ad Amburgo. Sua nuora, Elisabeth Buddenbrock, nata Kröger, rise il riso dei Kröger, che incominciava con una vibrazione delle labbra, durante la quale essa premeva il mento sul petto. Aveva, come tutti i Kröger, la figura sommamente elegante, e per quanto non si potesse dire una bellezza, comunicava a tutti con la sua voce limpida ed educata, coi suoi gesti calmi, dolci e sicuri, un senso di chiarezza e fiducia. Ha i capelli rossicci, attorti sulla testa in modo da formare una coroncina e pettinati a larghi riccioli ricadenti sopra le orecchie, corrispondeva alla carnagione bianca ed estremamente delicata, con qualche piccola lentiggine. Il viso, dal naso un po' troppo lungo e dalla bocca piccola, aveva questo di caratteristico, che fra il labbro inferiore e il mento non c'era alcuna rientranza. Il corpetto corto dalle maniche a sbuffi, al quale era attaccata una stretta gonna di seta vaporosa a fiori chiari, lasciava libero un collo di bellezza perfetta, ornato di un nastro di raso sul quale scintillava una guarnizione di grossi brillanti. Il console portava una giubba color cannella con larghi risvolti e con le maniche a forma di clava che si restringevano sulla mano al di sotto del polso. I calzoni attillati erano di stoffa bianca, lavabile, con bande nere all'esterno. Intorno al colletto rigido sul quale appoggiava il mento era annodata una pesante e larga cravatta di seta che riempiva tutta la scollatura del panciotto multicolore. Aveva gli occhi un po' infossati di suo padre, azzurri e attenti, anche se l'espressione era forse un po' più sognante. Ma i suoi lineamenti erano più severi e pronunciati, il naso forte, curvo, e le guance, fino a metà coperte da basette bionde e ricciute, erano assai meno piene che quelle del vecchio. Erano raccolti nella stanza dei paesaggi, al primo piano dell'ampio antico palazzo nella Mengstrasse che la ditta Johann Buddenbrock aveva acquistato recentemente e dove la famiglia abitava da non molto. Gli arazzi, spessi e morbidi, separati dal muro mediante un'intercapedine, rappresentavano vasti paesaggi dai colori delicati, come quelli del tappeto leggero steso sul pavimento, idilli sul gusto del secolo XVIII, con allegri vignaioli, laboriosi agricoltori, pastorelle ornate di nastri che tenevano in grembo agnelli puliti sul margine di acque specchianti o erano baciate da pastori innamorati. Per lo più dominava su quelle figure la luce giallastra del tramonto, in perfetta armonia con i rivestimenti gialli dei mobili verniciati di bianco e con le tende di seta gialla alle due finestre. In proporzione all'ampiezza della stanza, i mobili non erano numerosi. Il tavolino rotondo dalle gambe sottili e diritte, leggermente filettate d'oro, non era davanti al sofà, ma alla parete opposta, di fronte al piccolo armonio, sul cui coperchio c'era un astuccio di flauto. Oltre alle solenni sedie a braccioli, regolarmente distribuite lungo le pareti, c'era ancora un tavolinetto da lavoro presso la finestra e, di fronte al sofà, un fragile scrittoio di lusso coperto di ninnoli. Da una porta vetrata, in faccia alle finestre, si vedeva la penombra d'un vestibolo a colonne, mentre, a sinistra di chi entrava, si apriva la porta a due battenti, alta e bianca, che dava nella sala da pranzo. All'altra parete, in una nicchia semicircolare, dietro uno sportello di lucido ferro battuto artisticamente traforato, scoppiettava la stufa. Il freddo, infatti, era venuto presto. Di fuori, al di là della strada, già ora, alla metà di ottobre, erano ingiallite le foglie dei piccoli tigli che circondavano il cimitero di Santa Maria, mentre il vento fischiava intorno ai potenti spigoli e angoli gotici della chiesa e la pioggia cadeva fredda e sottile. Per un riguardo alla vecchia Madame Buddenbrock si erano già messi i doppi vetri. Era un giovedì. il giorno in cui la famiglia si riuniva di norma ogni 2 settimane. In quel giorno però, oltre ai membri della famiglia residenti in città, erano stati invitati anche un paio di buoni amici di casa a un pranzetto molto semplice e verso le 4 del pomeriggio, al calare del crepuscolo, si aspettavano gli ospiti. La piccola Antonì disse: «Io so una cosa, nonno!» «Tien, Tony sa una cosa!» esclamò il vecchio fingendo di essere torturato dalla curiosità. «Hai sentito, mamma? Lei sa una cosa, ma nessuno sa dirmi!» «Se è un colpo a caldo!» osservò Tony chinando la fronte ad ogni parola. «Cade il fulmine! Se invece è un colpo a freddo, cade il tuono!» Poi incrociò le braccia e guardò i visi ridenti come chi è sicuro del proprio trionfo. Il signor Buddenbrock invece se ne ebbe a male di quella sapienza e volle assolutamente sapere chi avesse messo in testa la bambina quelle stupidaggini. E quando si seppe che era stata Ida Jungmann, la signorina di Marienwerder, assunta recentemente per i piccoli, il console dovette prendere le difese di Ida. Il vecchio non nutriva soverchie simpatie per Ida Jungmann. Non che fosse di vedute ristrette, aveva visto anzi un bel po' di mondo, ma prescindendo dai suoi contatti commerciali, tendeva dal punto di vista sociale, assai più del console suo figlio, a tracciare i limiti precisi e ad opporsi a quanto sapeva di forestiero. Perciò, quando un giorno i suoi figli di ritorno da un viaggio nella Prussia occidentale portarono con sé quella ragazza, un'orfanella, per questo gesto pietoso il console aveva dovuto sostenere con suo padre uno scontro, durante il quale il vecchio aveva parlato quasi soltanto in francese e in dialetto. Del resto, Ida si era dimostrata una brava massaia, adatta per i ragazzi e per la sua onestà e per i suoi concetti prussiani in fatto di gradi sociali, era in fondo molto indicata a coprire quel posto nella casa. Era di principi aristocratici e faceva la più meticolosa distinzione fra la prima e la seconda aristocrazia, fra il vero e proprio ceto medio e il ceto medio di grado inferiore. E orgogliosa di appartenere come aiutante devota alle sfere più elevate, non vedeva di buon occhio l'amicizia di Tony per una compagna di scuola che, secondo la valutazione della signorina Jungmann, si poteva assegnare soltanto al buon ceto medio. In quel momento la prussiana stessa comparve sotto il colonnato ed entrò dalla porta vetrata. Era una ragazza piuttosto alta, di ossatura robusta, vestita di nero, coi capelli lisci e la faccia onesta. Conduceva per mano la piccola Clotilde, una bimba straordinariamente magra, con un abitino di guarnello fiorato, dai capelli cinerei e opachi sopra un viso di vecchia zitella. Pollone d'una linea collaterale del tutto sprovvista di mezzi, Clotilde era figlia di un nipote del vecchio Budenbrock che faceva il fattore nei pressi di Rostock e veniva allevata lì, in casa, perché era una creatura obbediente e coetanea di Antoni. «Tutto è pronto», disse la signorina Jungmann arrotando in gola l'R che da principio non era stata nemmeno capace di pronunciare. «Tilde è stata di grande aiuto in cucina. Trin non ha avuto quasi nulla da fare». Il signor Budenbrock soffocò nella pettorina un sorriso beffardo per la pronuncia forestiera di Ida. Il console, invece, accarezzò la nipotina e disse: «Così va bene, Tilde. Prega e lavora, hanno detto. La nostra Tony dovrebbe seguire l'esempio. Troppo spesso, invece, non fa che oziare e alzar la cresta». Tony chinò il capo e sbirciò il nonno di sotto in su, poiché sapeva che, come al solito, l'avrebbe difesa. «No, no», disse egli infatti. «Sulla testa, Tony! Courage! Non tutti sono uguali, ciascuno a suo modo. Tilde è brava, ma anche noi non siamo da buttare via. Sono ragionevole, Betsy?» Si rivolse alla nuora, che solitamente era d'accordo con lui, mentre Madame Antoinette, forse più per prudenza che per convinzione, prendeva di solito le parti del console. E così le due generazioni si porgevano la mano, per così dire, nello chasse-croisé. «Lei è molto buono, babbo», disse Elizabeth. «Tony si sforzerà di diventare una donna brava e saggia». «I ragazzi sono ritornati da scuola?» domandò poi a Ida. Si udì squillare di sotto nel vestibolo il campanello della porta. Dopodiché entrarono Tom e Christian insieme con i primi invitati: Jean-Jacques Hofstede, il poeta, e il dottor Grabov, il medico di famiglia. Thank you.